promesse di campagna elettorale che ci ammogliano. Attualmente coi decreti poi ci sdraiano. Lo stipendio con le tasse, mentre sono grasse pance, tasche delle cariche. Appurato piove sempre sul bagnato. Giulio più stipendi a vita d'arsenato. E nonno mio non c'è un euro bucato. In più fuori dalla posta a borsa gli hanno scippato. In Italia tu non sai quanto pesa la parola della Santa Romana Ecclesia. La Costituzione è malleata dai dogmi. Il referendum lo si abbracca e poi basta con gli aborti. No, non fornicare se non serve a procreare. Sacerdote usava condom con le piccole scolari. Rompeva voti e i meni nella stanza di dietro dell'altare. Un rapporto stato chiesa costellato dagli equivoci. Hanno mezza Roma ma per loro niente ICI. Le istituzioni in combutta coi clan. A tavolino stilano il business plan. Italia che succede? Se perso questo gregge che vedo più su più. Infatti nome della legge Italia squalo. Autore gente tacca a spillo. E i santi dove stanno? Giù a batte se le squillo. Italia che succede? Se perso questo gregge che vedo più su più. Infatti nome della legge Italia squalo. Autore gente tacca a spillo. E i santi dove stanno? Giù a batte se le squillo. Classe politica casta di farabutti. Non sempre quando sei minito ne raccogli frutti. A volte ci si trova gli orizzonti distrutti. Prima puoi fare conti con la realtà, tocca a tutti. Il frutto del sudore di milioni di persone. Fila dritto nelle tasche del medesimo signore. Un capo senza cuore, un altro senza onore. Tutto torna ai soldi sul motore universale. Ce l'abbiamo noi il dittatore ideale. L'informazione c'ha il controllo totale. Il problema è che a Tremonti non gli tornano i più conti. Si parla di Marrazzo, De Trans a due ponti. Assessori, PM, ministri, parlamentari. Tutti fuori solo magna magna, sono tutti uguali. Vabbè ma quali opportunità pari. Se mi parli di Carfagna me la vedo a 90 gradi. Mi fa male come un calcio nello stomaco. Roma capitale con un fascio come sindaco. Rossi, Calderoli, Borghezio, Liscio, Celli. Sono il primo esempio della fuga di cervelli. Della religione non mi è mai fregato cazzi. Da resto non c'è religione se c'è un papa nazi. Non torno sui miei passi, tracco le mie conclusioni. Questo è il mio paese della terra dei massoni. Italia che succede? Se perso questo gregge che vedo più su più. Infatti nome della legge Italia squalo. Autore gente tacca a spillo. E i santi dove stanno? Giù a batte se le squillo. Italia che succede? Se perso questo gregge che vedo più su più. Infatti nome della legge Italia squalo. Autore gente tacca a spillo. E i santi dove stanno? Giù a batte se le squillo. Ipocrisia che sgamo, la tua retorica innesca marcia sull'amo. Se l'Italia chiama nell'elmo di Scipio, beh non risponde, c'ho più del principio. Ti, da te è tutto uguale, tutto banale. La ripresa sale al tuo parlamentare. E te ci credi a loro, io sono di un'altra razza, son bombarolo. Ah, ancora che dite, l'unico diritto qua al giro de vite. Abili in Italia, nell'Italia libri. Passiamo da mani pulite a mani invisibili. L, l'abile mente. Tanto la colpa è del governo precedente. La gente stanca, ta finisce in banca, ta con un Bushmaster. Ideologia del capriccio, compro la fortuna con uno spiccio. Tanto lo so, sono morto de fame. Spero in un gratta e gratta col cartone. Ave Maria, pensaci tu. Ma ave fa le orge con Belzebù. Il fatto è che non ci stanno santi. E quei pochi se li so comprati con tanti. Italia che succede? Se perso questo gregge che vedo più sopra. Infatti nome della legge Italia squalo. Autore gente tacca a spillo. E i santi dove stanno? Giù a batte se le squillo. Italia che succede? Se perso questo gregge che vedo più sopra. Infatti nome della legge Italia squalo. Autore gente tacca a spillo. E i santi dove stanno? Giù a batte se le squillo.